everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Under Oath on Do It Yourself Radio. Please call in your support. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Sono Pietro, anche di Solo Vinili Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Sono 17 minuti passate le ore 21. Ce la siamo presa un po' comoda. Quindi benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Do It Yourself Invasion. Siete all'ascolto degli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, della banda romana e laziale. Radio che potete ascoltare anche attraverso lo streaming. Quindi andando su www.ondarossa.info. Sito attraverso il quale poter sostenere questo progetto senza padrini, senza padroni. Ed andando a cliccare su sostieni sarete indirizzati a una pagina PayPal. Oppure attraverso lo storico conto corrente postale, il 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 5600185, Roma San Lollo. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email della trasmissione. Potete scriverci a fantasma@ondarossa.info. Ah! insomma già da quest'estate, dal mese di luglio, eravamo andati un po' a curiosare su quello che stava accadendo per le strade di Milano. Grazie al Mastello Reporter, insomma, ci siamo già fatti delle chiacchierate con chi era lì in quei giorni, però c'è rimasta la curiosità. Ne riparliamo questa sera con un ospite. Quindi ci facciamo una chiacchierata al telefono con Giuditta. Buonasera. Ciao a tutte e tutti. Buonasera. Insomma, vabbè, l'hai riconosciuto il pezzo che abbiamo mandato prima? Sì, infatti stavo sorridendo. Non me l'aspettavo, vabbè, sinceramente. Partiamo da quello, ne vogliamo parlare. Cosa abbiamo ascoltato? Lo vuoi dire tu? Sì, è un pezzo del mio gruppo che si chiama Fiere, è tratto dall'EP che abbiamo fatto uscire ormai, che anno era, due o tre anni fa. Adesso in realtà siamo usciti anche con un nuovo disco di recente. Parto subito così con le marchette. Sì, va bene. No, appena uscito un disco nuovo, comunque quel pezzo lì era appunto dell'EP. No, era 2013 l'EP, 2016, sì, anni fa. Questo sta anche in rete, no? Si può trovare? Sì, è tutto in free download su Bandcamp. Ma anche perché l'abbiamo preso da un'altra cosa, che è la compilation. Sì, esatto. Che è Disgusto e Strafottenza. Vabbè, quanti pezzi sono? 35? Sì, adesso non mi ricordo se sono 30-35, comunque qualcosa del genere. Esatto. Tutti quelli che ci stavano sui CD masterizzabile, sostanzialmente. E poi ne parleremo magari più tardi, come si è arrivati alla compilation e ad altre cose fatte anche in strada. Insomma, no, cioè, poi abbiamo scambiato anche qualche parola, microfoni spenti, era emersa così il fatto del mitismo, no? Perché spesso si va a percezione su quello che può essere qualcosa quando appunto non la si conosce direttamente. Allora parli di Milano e ti vengono in mente gli anni 80, il virus, i Wretched. C'è un po' questa immagine. Sì, assolutamente. Ci sono stati tanti gruppi importanti che chiaramente a volte hanno questa ombra sul presente. Vabbè, questa è una cosa che noi diciamo anche nella compilation di cui parlavi prima. Ho scritto una piccola introduzione per chi ha la compilation o chi la scarica, anche lì è scaricabile da internet in free download. C'è questa piccola introduzione dove diciamo proprio questo, che non vogliamo, cioè assolutamente con l'importanza che ha avuto tutta la storia, tutto il passato che c'è dietro, che ci ha portato a quello che siamo oggi, bene o male. Però questo mitizzare a volte le cose del passato porta le persone a chiudersi a quello che è il presente, mentre in realtà io vedo non solo a Milano, che poi vabbè, noi gestiamo tutto chiamandolo Milano DIY Hardcore Punk, però che non vuole essere assolutamente una cosa campanilistica, ma solamente una cosa diciamo di indicazione geografica. Cioè io vedo comunque non solo a Milano ma anche in tante altre città d'Italia, d'Europa, che c'è una scena bella attiva. Vabbè, usiamo questa parola convenzionale che in realtà non mi piace tanto, però ci sono tante cose in giro, quindi si va bene, appunto come dicevi tu, Wretched, che anzi vabbè, c'è Fabietto che è parte attiva tuttora della scena, dei concerti che si vede sempre, ad esempio, o anche altre persone comunque di una certa età. Noi siamo, cioè, vedi ai concerti persone dai 15 ai 60 anni senza problemi, ed è una cosa meravigliosa. Quindi voglio dire, il mitismo è sempre una cosa brutta, perché tanti dicono ma non ci sono più concerti come c'erano in quegli anni, la gente non va più ai concerti, eccetera eccetera. Invece di lamentarsi, forse è meglio fare, partecipare, e magari se esci un attimo di casa invece di vivere le cose da dietro il computer guardando i video degli anni 80 su YouTube, magari ti accorgi anche che c'è qualcosa di bello in giro, che forse è ancora non dico meglio di quegli anni, però tante di queste persone a cui mi riferivo prima, con cui parlo, mi dicono: guarda, ma negli anni Ottanta in realtà tutti quanti dicono così, però noi eravamo a vedere anche, non lo so, band poi successivi come in Sottopressione con 10 persone, che adesso sono gruppi comunque mitizzati, però ai tempi non se li cagava nessuno. Quindi la cosa è sempre stata un po' così. Vabbè, invece, ecco. Invece in questi giorni a Milano nell'ultimo periodo c'è stato abbastanza fermento. Come ti volevo chiedere appunto se il movimento, insomma, del DIY milanese di questi ultimi tempi era avvenuto magari per un ricambio generazionale, non so come. Allora, come accennavo prima, in realtà siamo tante realtà, tantissime realtà, e tra l'altro sotto questa cosa di Milano DIY non le raggruppiamo neanche tutte, poi ci sono anche altre realtà nella provincia o che operano sempre a Milano, che in realtà non fanno parte della nostra, oddio, non so come chiamarla, però più che altro per una questione che non ci si conosce ancora o che si hanno delle ottiche diverse rispetto alla musica. Noi appunto ci teniamo a questo discorso del DIY e comunque di avere un'impronta abbastanza chiara su temi politici legati alla musica, anche su certe come pratiche, l'antirazzismo. Dicevi, scusa? No, cioè quando poi si parla della cosa più bella che è la pratica, no? Sì, esatto. Oddio, ho perso il filo adesso. mi avevi chiesto la domanda iniziale era No, come si è arrivati. Sì, se era stata una cosa avvenuta per un ricambio generazionale, perché cioè quello che c'era un po' prima a Milano, ricordando un po' il periodo forse di crisi degli anni 90, fine anni 90. Poi questa novità nel rincontrarsi e riconoscersi un'altra volta negli occhi, insomma. Sì, ecco, allora guarda, come dicevo, ci sono realtà che vanno dai 15 ai 60 anni, compresa gente appunto che già ha avuto mille gruppi alle spalle, mille concerti organizzati, occupazioni, eccetera, eccetera. Secondo me la cosa scatenante è stata che ci siamo trovati appunto magari anche persone giovani, nuove. Vabbè, io ormai organizzo concerti da 2 anni, qualcosa del genere, che non è tantissimo, e mi sono trovata comunque a collaborare con persone che magari all'inizio avevano perso un po' la voglia, perché appunto vedevano che, cioè, posso comprendere che dopo anni che ti sbatti per fare concerti e vedi che le cose rimangono ferme, non diventa un po' frustrante, però hanno visto che c'erano persone nuove con voglia di fare, perché comunque siamo in tanti, che cioè anche io ho 26 anni, però ci sono anche ragazzi più piccoli di me, per esempio i Ciao Proprio, che era un collettivo che, vabbè, adesso si sta ridefinendo. Loro hanno tra i 21 e i 23 anni, quindi sono proprio piccoli tra virgolette, e credo che sia stato quello il fatto di questa congiunzione di persone nuove e persone che già organizzavano, perché comunque ci sono persone anche che hanno gestito realtà importanti come il Downtown, ad esempio, che non so se hai presente, che c'era Leon Cavallo. Sì. Anni fa, e facevano un sacco di concerti. Come no? Anche molto fighi e super partecipati. Poi quando si è sciolta quell'esperienza lì, in realtà ognuno è un po' andato per la propria strada. Vabbè, per esempio c'è Tazio, che comunque lui con Knife Shows qualcosa organizzava, la Pamela che si è organizzata con me e con la Leonor, con altre ragazze in questo collettivo che si chiama Pins of Chaos, a organizzare altre cose più di impronta antisessista. E quindi comunque ognuno, non è che c'è stata proprio una morte definitiva, secondo me erano tutti lì che aspettavano un attimo di sotto la sabbia che tornasse un attimo di fermento, come dicevi tu prima. E all'inizio, io ti dico, già solo 2 anni fa, le persone che vengono ai concerti adesso non le vedevi, nel senso che adesso sono cresciute di tanto. Ma secondo me è proprio questa cosa, che comunque ci siamo trovati poi in un clima molto amichevole di collaborazione, nel senso che tutti quanti supportano i concerti di tutti, ma non perché lo senti come un dovere morale, perché ti fa piacere, perché vai a un concerto dei tuoi amici, anzitutto ci danno una mano se c'è bisogno, ed è una cosa proprio bella, cioè una cosa, secondo me è questo che rende speciale quello che sta succedendo a Milano, che è una cosa che a me mi riempie tantissimo personalmente, cioè oltre a farne parte, proprio vedere le persone coinvolte. Per esempio, è stato 2 venerdì fa, abbiamo organizzato un concerto in uno spazio occupato in Cascina Torchiera con dei gruppi dal sud, c'erano i Sud Disorder, gli Inganno, i Shameless e poi dei gruppi locali, anche essere Zidima, poi c'era un gruppo hip hop, Rakshasa, adesso vi sarò dimenticata qualcuno che si offenderà e lì ho visto veramente tantissime persone che non avevo mai visto a un concerto, cioè vabbè, io ormai comunque girando da tanto tempo, vado ai concerti da quando ho 15 anni, quindi sono 11 anni che giro, bene o male le facce ce le ho, non dico tutte, ma la gran parte ne ho presenti, e lì invece è stato bellissimo vedere questa cosa, che vedevi gente arrivare che probabilmente arrivano, lo so, da altri contesti, o magari gente che va ad altri tipi di concerti un po' più mainstream, perché vabbè, alla fine anch'io sono passata da quello, cioè il mio primo concerto l'ho visto in Fornace a Ro, che appunto era uno spazio occupato, che c'è tuttora, anche se si sono dovuti spostare, che li hanno sgomberati. Però comunque anch'io andavo a concerti grandi, non so, il primo concerto grosso che ho visto è stato Rock in Idro, e tutte queste cose comunque mi hanno portato ad andare sempre in altre situazioni che magari all'inizio non conoscevo, e a crescere come persona rispetto a determinati temi. Ma guarda, è bello coinvolgere persone che non sono prettamente di questo ambiente, tra virgolette. Poi mi ricollego a una cosa che hai detto prima, no? Hai parlato del Leon Cavallo come un posto che in un certo momento della sua storia ha potuto organizzare belle cose con lo spirito insomma dell'autogestione del do it yourself al downtown, e poi hai cominciato a parlare della Milano, insomma, che c'è la percezione da fuori che è la città dei grandi eventi, dei grandi concerti, anche di musica tra virgolette alternativa, no? Sì, e poi sì. Leon Cavallo e posti come Leon Cavallo appunto hanno avuto una storia diversa, sono stati istituzionalizzati, e mi chiedevo appunto da questa situazione qui che c'è a Milano comunque, no? La voglia pure di organizzare concerti in strada è stato un po' non so, autoaffermarsi sulla strada in uno spazio comune e condiviso senza sovrastrutture, insomma, di... Ah sì, sicuramente è stato un gesto voluto e intenzionale il discorso di riprendersi le strade, non per niente, vabbè, adesso tu fai riferimento a concerti in strada, l'ultimo che c'è stato è stato quello in Via Gola durante le 5 giornate. Via Gola è un quartiere molto è in Ticinese, che è un quartiere molto problematico della città, ed è credo che sia il quartiere con più occupazioni abitative di tutta Milano, e fare un concerto lì, bloccare le strade perché c'era veramente tutta la strada bloccata, passavano anche i volanti ma non osavano dire nulla perché chiaramente gli si sarebbero rivoltati tutti contro, c'era la via piena di persone tutta bloccata, è un modo di dire proprio appunto letteralmente riprendersi le strade, riprendersi la città è nostra, la città è di chi la vive, non è dei politicanti, non è della polizia, è nostra e ce la prendiamo quando vogliamo. Era proprio un atto di sfida, tra virgolette, è stata una cosa, perché comunque vabbè, Leon Cavallo non abbiamo rapporti, perché vabbè, adesso appunto come dicevi tu è istituzionalizzato, ha un'altra ottica rispetto alla nostra, come altri locali che ci sono a Milano. Infatti noi organizziamo prevalentemente in posti occupati, per una questione proprio di legame che c'è tra la musica che facciamo e questi spazi, cioè non potrebbe essere altrimenti per come la viviamo. No, quindi appunto c'è stata una condivisione insomma di stessi valori tra persone di provenienze diverse. Poi hai citato le 5 giornate di Milano organizzate in strada in un'area di Milano piena di occupazioni. No, mi chiedevo se questo oddio, va bene, mandiamo uno spot. No, scherzo. No. Ci sta di incartarsi, guarda. Sì. No, se il fatto di organizzare questa iniziativa in strada in un posto pieno di occupazioni abbia rinsaldato anche il movimento sotto quell'aspetto, quindi non legato solamente ad un'iniziativa musicale, ma insomma dentro al quartiere. Ma guarda, per quello che faccio, cioè come dicevo prima, per quello che facciamo noi, che abbiamo sempre fatto, per le persone che compongono questo specie di collettivo gigante che siamo, che poi è in continuo diciamo in continua trasformazione, perché poi magari c'è anche la persona dalla provincia che non organizza quasi mai, che magari viene e al gruppo di amici dalla Germania, che ne so, da piazzare, e gli si dà una mano, e quindi è molto mutevole come cosa. E vedi, mi sto incartando anch'io, perché io l'ho detto prima, sono super prolissa, è contagiosa. Parto da un punto e finisco da tutt'altra parte. Vabbè, no, comunque la domanda era, ecco sì, che per come ci organizziamo, per quello che facciamo, è una cosa che va da sé da sempre, il fatto che la musica venga abbinata non solo a un contenuto prettamente musicale, strumentale, di band, ma anche a tutta una serie di discorsi che ci stanno dietro, che per noi magari sono scontati, in realtà non è sempre così. Vedo anche adesso, cioè, ciclicamente vengono fuori discussioni su persone che ritengono che l'hardcore è solamente un genere musicale. No, assolutamente no. Voglio dire, il punk e tutti i suoi derivati come l'hardcore fondano le proprie radici in un sentimento anti-autoritario, quindi non è chiaro che venga legata questa musica a temi legati anche alle lotte, alle varie lotte politiche, che poi siano movimenti di tipo anarchico, autonomo o comunque in generale di ale di sinistra. Comunque ci sarà un'affinità rispetto a questo tipo di visione del mondo, e quindi va da sé che per noi la musica non è soltanto musica, ma si associa a anticapitalismo, antifascismo, antirazzismo, antisessismo, antispecismo per la maggior parte di noi. Io sono vegana, per esempio, è una cosa che quindi trova sfogo in spazi che riflettono questo tipo di sentimenti. Quindi per noi non è assolutamente la stessa cosa organizzare in un locale un concerto, o organizzarlo in uno spot, o anche organizzare un concerto che di gruppi che non abbiano una determinata visione delle cose vicina alla nostra, ma non per una questione di dire noi siamo più fighi, voi fate schifo, non vi caghiamo. È proprio una questione di affinità, che poi si ripercuote anche nel clima dei concerti, che questa è una cosa che noto, cioè che ho sempre notato. Io prima dicevo, quando ero più piccola andavo ai concerti grandi, anche adesso mi è capitato di andare, non lo so, ai Rise Against, all'Alcatraz. Il clima che c'è in quei concerti non ha niente a che vedere con il clima che trovi ai nostri concerti, e nostri non intendo nostri di chi organizza, intendo di tutti quanti. C'è proprio un clima totalmente diverso, perché le persone che ci vanno hanno una visione, un sentimento delle cose totalmente diversa, a mio avviso. No, vabbè, la differenza di andare a fruire invece dall'altra parte, insomma, mettere in condivisione le proprie energie in qualsiasi modo, insomma, fare le cose insieme. Sì, che è un altro punto importante, nel senso che vabbè, c'è sempre chi trova da criticare, c'è chi ci ha detto: ah, ma fate sempre suonare gli stessi gruppi, non ci chiamate mai, eccetera, che se vai a guardare le locandine di tutti i concerti che facciamo non è assolutamente vero, nel senso che sì, magari si chiamano spesso dei gruppi locali di supporto a band da estere che hanno bisogno di rimborsi spese, però io personalmente cerco di non chiamare mai la stessa per due volte di fila lo stesso gruppo, perché ci sono talmente tanti gruppi che ci chiedono che non avrebbe senso. E quello che dico sempre è: cavoli, che poi è quello che porca miseria ho fatto io non è che mi è venuto nessuno, ma anche Roberto, altre persone che organizzano insieme a me, non è che nessuno ci ha detto: ah, ok, allora adesso prendi, fai, si fa così, esatto. Questo è il manuale, vai avanti. No, cioè, noi voleva, cioè, la spinta è stata: vogliamo suonare col nostro gruppo. Anch'io i primi due concerti che ho organizzato li ho organizzati per suonare col mio gruppo, perché chiaramente inizi a suonare, non hai tanti contatti, non conosci tante persone, non sai bene come funziona, prima che ti inizino a chiamare magari ne passa. Cazzo, prendo e faccio io, cioè l'autogestione, porca miseria, questa è una cosa fondamentale legata al do it yourself, legata a questo tipo di musica eccetera eccetera. Quindi io prendo, decido che voglio suonare, non è che aspetto che qualcuno mi dica: ah, tu prendi, vieni e suona. No, il concerto me lo organizzo io, e quindi prendi, inizia ad avere contatti, inizia a entrare nel giro, e quello che dico sempre: cavolo, fatelo anche voi, più siamo meglio è, non bisogna attendere, cioè non esistono, anche lì chi organizza non è solo chi organizza tante volte anche chi suona, chi cucina, chi sta in cassa, chi sta al bar, tutti quanti possono dare una mano, e anzi il senso è quello, cioè proprio il senso dell'autogestione, del DIY. Non esiste qualcuno che ti dice cosa devi fare, sei tu che lo fai perché ti piace farlo, perché vuoi farlo, perché sai perché che non ti va di aspettare di delegare ad altri la tua felicità, insomma. Esatto, esattamente, che poi è un insegnamento che vale nella musica, ma che poi si ripercuote. Stiamo diventando filosofici, cavoli. No, ma su questa cosa, per me, guarda, per me il punk e l'hardcore in generale sono filosofia, nel senso che comunque ti danno talmente tanti insegnamenti che cioè, è una filosofia di vita per forza di cose, se comprendi che cosa vogliono dire, chiaramente. Tanti lo dicono o lo pensano, ma veramente, cioè, a me il punk mi ha salvato la vita, proprio nella visione delle cose. Cioè, io ho avuto personalmente... No, cioè, ti rovina e ti salva. Come, scusa? No, dico, ti rovina e ti salva. Ah, beh, sì. C'è sempre una fase di rovina, poi c'è la salvezza, no, però, insomma... No, beh, di sicuro per me è una cosa che non abbandonerà mai nel bene e nel male, no. Quello sicuramente. Allora, siamo a giovedì 5, giusto? Sì, sì, esatto. Tra due giorni, il 7 novembre, sabato. Cosa ci sarà? Sabato 7 novembre c'è un esempio di quello che facciamo, ovvero c'è un festival abbastanza grandino, io adesso non mi ricordo quanti gruppi, sono una decina. Avevo detto che avrei studiato, in realtà non è assolutamente vero. Vabbè, puoi allora, improvvisare ed invitare a correggerti. Ecco, allora ci sono una decina di gruppi che suonano in Boccaccio, che è uno di queste occupazioni con cui collaboriamo molto spesso, tra cui c'è Cosimo soprattutto, che fa parte del collettivo, che è parte super attiva anche di tutti gli altri concerti organizzati non solo nel loro spazio, ed è un concerto organizzato da appunto da tante realtà, perché vabbè, ci siamo noi come Queens of Chaos, c'è appunto Tazio che citavo prima con Night Shows, appunto c'è il Boccaccio come collettivo, e c'è Roberto che vabbè, lui per esempio non fa parte di nessun collettivo specifico, però anche lui è uno che si sbatte tantissimo, organizza un sacco di cose, c'ha voglia di fare, e anche lui è più piccolo di me, adesso ha 24-25 anni, una cosa del genere. E niente, ci sono un bel po' di gruppi fighi, tra l'altro anche lì un'altra cosa che ci piace fare è la commissione di generi, perché appunto vabbè, ci sono mille sfaccettature di questa musica e è sempre bello riportarle tutte quante, e quindi vabbè, partiamo dall'hardcore più vecchia scuola, suoneranno i CGB, Gram Gang Bang di Imperia, poi ci sono i World Nation dalla Francia che fanno grindcore, l'Antic Waters dalla Germania, che è un gruppo neocrass, poi abbiamo un altro gruppo grindcore dalla Spagna, da Saragossa, che sono gli Mura, e beh, ci sono i Vomit 8 dal Veneto, gli Ugly Facts, che per esempio sono un gruppo che abbiamo messo dentro, perché ecco, noi abbiamo anche questa tendenza, poi suonando tutti quanti in gruppi lo capiamo benissimo, che quando c'è qualche gruppo in tour cerchiamo sempre di buttarlo dentro per dargli una mano, anche se magari è gente che non conosciamo di persona, ma che comunque arriva da giri affine ai nostri, è sempre bello dare una mano, quindi vabbè, ci sono loro che li abbiamo buttati dentro un po' così a occhi chiusi, poi che tra l'altro sono un gruppo sconosciutissimo, non hanno niente su internet, lo sanno loro eh? Dico sì, lo sanno, no, non così a sorpresa, loro lo sanno, però non lo sappiamo noi, nel senso che appunto hanno giusto un video su YouTube, niente da scaricare. Bello, insomma la voglia, la febbre della scoperta. Sì, vabbè, poi ci sono, chiudo la lista dei gruppi, che così non faccio torto a nessuno, ci sono invece di Milano e provincia, vabbè, ci sono i Feed Me More, che è il gruppo uno dei gruppi di Roberto, che ha dentro anche componenti della Overdrive Records, che è un'etichetta calabrese, vabbè, loro adesso stanno qua in Lombardia. Ci sono i Motron, che vabbè, anche lì componenti storici del giro del Varesotto, che fanno la release del disco nuovo, e poi c'è un gruppo nuovo che fa il primissimo concerto, che sono gli Istante, anche se lì c'è gente che comunque già suonava in altri gruppi. Ecco, no, ritornando al discorso dell'aiutare i gruppi in tour, un'altra cosa bella dell'unione tra le persone è proprio questa, che noi ci siamo organizzati in modo da avere un nostro database delle date che ognuno si impegna ad aggiornare, e quindi una persona, prima di fissare una data con un gruppo in tour o una data di qualsiasi altro tipo, consulta il file, e se lo stesso giorno c'è organizzato qualcosa, ci si organizza per fare un unico concerto tutti insieme. Purtroppo, dicevo prima, ci sono tante persone rispetto al passato, ma ancora non siamo tantissime. Che poi evitare di fare due serate, due concerti la stessa sera, è importante per non rubarsi, tra virgolette, del pubblico. Ecco, scusa che sto dilungando. Cioè, quello che hai descritto poi è una cosa talmente logica e, cioè, è semplice, no? Purtroppo non ci sovrapponiamo nelle iniziative, perché insomma siamo noi. Purtroppo io sento un sacco di gente lamentarsi per questa cosa in altre città, e anche da noi, nonostante questa organizzazione che ci si sta cercando di dare, a volte capita. Poi vabbè, magari sono serate con generi diversi, e non si è riuscito per motivi oggettivi, non lo so, anche lì la questione dei rimborsi purtroppo è sempre scottante, cioè noi tutto questo chiaramente non lo facciamo per soldi, però una cosa che tante volte le persone non capiscono, se non suonano o se appunto non sono coinvolte nell'organizzazione, è che un gruppo che arriva da fuori ha delle spese per arrivare a suonare, che non sono spese che dici il giorno dopo lo vedi in limousine a sniffare cocaina con quei soldi, cioè si tratta di 100 euro per la benzina. E tante volte invece sei lì a, guarda, a me a volte capita di fare degli ingressi a offerta libera, che sarebbe la cosa più auspicabile, perché appunto c'è un'altra cosa fondamentale di questa musica, che deve essere fruibile da tutti, è una musica aperta, non è una musica fatta per il guadagno, non si basa su quello. E a volte però fai l'offerta libera e arriva gente che ti mette lì 40 centesimi di ingresso, che dici vabbè, però, e poi magari si ammazza di birra e vabbè, adesso va bene tutto, però bisogna comprendere che se anche lì, se non si riesce a dare il rimborso ai gruppi, che poi il gruppo non torna più e quindi muore tutto. Certo. Quindi non è che noi siamo lì con il fucile puntato all'ingresso, anzi guarda, io è una cosa che voglio fare se riesco a Bologna ad altri, però bisogna capire che appunto ci sono delle spese oggettive, che tanto la band ci va sotto comunque, cioè, è che a volte ti vieni trattato anche dai posti, questa è una critica che posso muovere a molti posti dove si organizza, che poi collaborando nel tempo si riesce a fargli capire le cose, però a volte quando inizi è un po' ostico. Bisogna capire che purtroppo quei soldi lì servono, che non sono soldi che ci intaschiamo noi così a sbaffo, sono soldi che vanno per delle spese vive, che tanto comunque non vengono mai coperte semplicemente per l'autofinanziamento, per la realizzazione dell'iniziativa, tutto qua. Sì, che poi comunque quando si riesce si fa sostanzialmente dei benefit per i posti dove si organizza, per tipo adesso in Torchiera chiaramente vabbè, e il bar lo tiene il posto e loro ci rifanno il tetto con quei soldi, e non è che anche lì se non finanzi le cose, non finanzi il posto, non ci sono i soldi per sistemarlo, poi ti lamenti perché magari fa freddo e di qui e di là, e allora non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, come si suol dire, no? Già. Allora, Giuditta, io la chiuderei così, con questa frase, insomma, di chiusura, che va a chiudere insomma la nostra chiacchierata, perché mancano pochi minuti alla fine della trasmissione e dopo un po' di chiacchiere io volevo far ascoltare qualcosa. C'ho pronti i Vomitotto. Ah, ecco, perfetto. Okay. Va bene, Giuditta, io ti ringrazio. Insomma, vabbè, dopo queste chiacchiere ci è venuta la curiosità di fare una trasferta a Milano e vediamo insomma bene, di vedere qualche iniziativa lì da quelle parti. Volentierissimo, anzi è stata molto piacevole anche la chiacchierata. Grazie, piacere nostro. Grazie Giuditta, a presto, un abbraccio. Un abbraccio a voi, ciao, ciao, ciao. Ciao. :57 Pochi minuti alla fine della trasmissione, ringraziamo ancora Giuditta. Un ringraziamento a tutte e a tutti all'ascolto. Noi ci risentiamo giovedì prossimo dalle ore 21. Rimanete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Tra poco con una nuova puntata. Di una trasmissione che prima erano i miei cuginetti, quando si trasmetteva al mercoledì. Adesso siamo diventati fratellini. Il saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si ritrovano in condizioni di limitata libertà personale. Noi ci risentiamo giovedì prossimo e vi lasciamo con un pezzo dei Vomit 8. O vomitate, come dicono giustamente, come suggeriscono. Sì? È venuto per la siepe? Senta, sono davvero spiacere. Io sono il tristo mietitore. Chi? Il tristo mietitore. Sì, capisco. Io sono la morte.